A Tempo di Sport con Carlo Genta. Buongiorno e buona domenica a tutti, sempre Franco Piantanini in redazione, Fabio Cantadori in regia. Tra una settimana a quest'ora sarà già campionato e saremo qui dalle 17 alle 18 per raccontarvi gli esiti della nuova stagione. Ma noi oggi vogliamo parlare di quella vecchia, vogliamo parlare di quella istantanea che campeggia probabilmente ancora sul cellulare di Adriano Galliani, che è diventata un'icona, una giustificazione, una scusa, un film, un libro. È diventata mille cose quel gol fantasma di Muntari in Milan-Juventus del 25 di febbraio. Domenica 26 febbraio, cioè il giorno dopo quel colpo di testa che superò la linea, fu una delle puntate, come facile immaginare, più calde di A Tempo di Sport. Allora vogliamo ripercorrere scherzosamente e augurandoci che non accada più, che con il giudice di porta che vedremo in questa stagione, che non ci siano più episodi di questo tipo, vogliamo ripercorrere quel giorno in compagnia di tutti gli ospiti che sono intervenuti. Primo fra tutti Guido Vaciago, giornalista di Tutto Sport. Ciao Guido. Ciao, buongiorno a chi ci ascolta. È una giornata normale, una giornata di riposo, una giornata di silenzio, dopo il rumore di ieri da parte juventina non c'è tanta voglia di commentare, c'è molta attenzione ovviamente, ci sono antenne dritte su quello che arriva da Milano e su quello che arriva dal Milan, ma non c'è tanta voglia di commentare. Vedremo se poi nei prossimi giorni cambierà qualcosa, ci saranno delle altre prese di posizioni, ma attualmente c'è una situazione di apparente calma, apparente perché sarebbe stato meglio averla prima, posso dire. Sì, probabilmente sì, però non è possibile, dai. Sono d'accordo con te, c'è stata un'escalation da parte di tutti i protagonisti della partita. E forse c'è un clima particolarmente arroventato, perché comunque la Juve torna a lottare per torna ad essere la Juventus, ma questo non è in tono dispregiativo, è torna ad essere la Juventus anche nell'importanza e magari anche nel peso politico e nel peso delle dichiarazioni dei suoi protagonisti. Guido, voglio chiederti invece un'opinione sulla formazione iniziale di Conte. Formazione iniziale di Conte, opinione negativa, perché mi sembra che questa volta abbia sbagliato. Io penso che Conte sia il principale responsabile della grande stagione della Juve e quindi abbia dei meriti immensi, perché comunque la rosa della Juve è nettamente inferiore al Milan e il fatto che stia combattendo punto a punto per lo scudetto vuol dire che il valore aggiunto di questa squadra è sicuramente l'abnegazione dei giocatori, ma che è stata stimolata da un allenatore che sta compiendo un miracolo. Ieri ha fatto un errore e Estigarribia dal primo minuto forse non era adeguato al livello della partita. Sì. Il 3-5-2, rinunciando dal primo minuto a Vucinic, che è forse uno dei pochi giocatori veramente di qualità che ha la Juventus, e a Matri, che oggettivamente è il centravanti più in forma, è parsa una visione un po' strana, insomma, una visione un po' originale. L'avesse vinta, anche perché stata... torno a ripetere la mia idea è che in questo modo togli un po' di certezza alla tua squadra e mostri qualche segno di paura agli altri. Io resto convinto di questo, nel cambiare i giocatori che ti hanno portato lì. Ma sai, sì, sono d'accordo, non sono tanto i giocatori che ti hanno portato lì, perché tutto sommato poi tutti quanti hanno dato il loro contributo. Sì, no, non c'è dubbio. Lo stesso Estigarribia, sì, a Napoli aveva giocato una partita, certo, straordinaria, certo, voglio dire. La Juventus è una squadra con 11 titolari, Guido. Sì, è vero. È vero che per esempio gli attaccanti li ha sempre cambiati, quindi anche lì è difficile dire qual è il vero centravanti titolare della Juve. Matri non ne ha giocate tante, quindi voglio dire, non si può dire che sia titolare. La rinuncia a Vucinic è parsa un po' più strana. Io non sono un appassionato di Vucinic, anzi vengo preso in giro dai colleghi perché sono sempre molto critico nei suoi confronti, perché mi infastidisce la sua indolenza per lunghi tratti della gara. Però non si può negare che Vucinic, appena entrato, ha un aumentato, ha alzato l'asticella tecnica della squadra, ha allargato di più la difesa del Milan, ha fatto più pressione sulla difesa del Milan, e questo indipendentemente da quello che uno può pensare di Vucinic, è una cosa di cui Conte doveva tener conto. Ma guarda, fai attenzione a una cosa: ai minuti delle sostituzioni di Conte ha sostituito Estigarribia nell'intervallo e ha messo Vucinic al 9° minuto del secondo tempo. Sono le sostituzioni più precoci, le sostituzioni tecniche ovviamente, lasciamo perdere gli infortuni, ma sono le sostituzioni tecniche più precoci della stagione di Conte, che testimonia che Conte è un bravo allenatore e non è fesso. Ma quel giorno intervenne anche il maestro Oliviero Toscani sulle parole di Buffon, che, come ricorderete, disse: "Bah, non mi sono accorto se era gol, ma certamente se me ne fossi accorto non l'avrei detto all'arbitro". Non mancarono frecciatine alla sua Inter da parte di Oliviero Toscani, alla sua Inter che allora era in crisi profonda. Buonasera. Io voglio chiedere la sua subito su questa storia di Buffon e di quello che ha detto dopo la partita, perché sono particolarmente curioso della sua opinione. Mi dica cosa ha detto, perché io sono in Francia. Ecco, le dico subito, sa che non è stato concesso quel gol al Milan, no? Sì, e Buffon dopo la partita ha detto: "Io non mi sono accorto sinceramente se la palla era entrata o no, però se anche mi fossi accorto che la palla era entrata non l'avrei detto". Allora. Eh? Grave. Sì, è abbastanza grave, perché non parla col cuore. Vuole vincere anche quando imbroglia, va bene. È un vero italiano. È così fuori. Sì, infatti è nella nazionale. Sì, sono d'accordo, però uno che ha il coraggio anche di dire una verità così impopolare, che magari molti di noi pensano. Fantastico, passa la storia però. Sì. O no, io ammiro il coraggio, perché io anch'io che non conto nulla da italiano dico: non lo so se avrei detto all'arbitro che era gol. Io non lo so, avrebbe potuto dirlo, perché prima di tutto perché è Buffon. Sì. E sarebbe passato alla storia come un grande uomo d'onore, invece purtroppo non è meschino anche lui. Sì. Proprio perché è Buffon doveva dirlo. Sì. Maestro, invece, chi sarà l'allenatore? Perché alla fine l'hanno battuto, no? È stato battuto. Quindi lui è stato battuto. È stato battuto. Chi sarà l'allenatore dell'Inter? Chi sarà il presidente dell'Inter? Che cosa sarà l'Inter, invece? No, allora, prima di tutto voi dovete capire che è fantastico come Massimo Moratti ragiona. Sì. Perché lui ragiona col cuore, quindi poche persone sanno fare questo. Sì. E quindi per tanta gente, la grande maggioranza è indecifrabile. Non a caso l'Inter è così, perché è così. Ogni partita dell'Inter è un'interata, non è una partita. Però ballano tanti soldi, ballano tanti interessi, ballano tante persone. Senta, che differenza fa per lei 20 euro o 20 milioni di euro? Niente per lei, per tutti gli altri, no? Sì. Tutti facciamo delle grandi scene, ma chi è che paga? Sì. No, certo. E chi paga il diritto di giocare col suo giocattolo? Appunto, lasciatelo fare, è fantastico, gioca col cuore, quindi la sua passione è molto più importante del denaro. Sì, sa cos'è un po' fastidioso però? Che mi sembra evidente che all'interno della squadra comandi un certo gruppo di giocatori che sono i senatori, e che ci sia il mal capitato lì in mezzo. Sono come Buffon, cioè mancano di cuore. Sì. Solo che Buffon ha il coraggio di esporsi, altri magari meno. Non lo so, io comunque non mi piace questa poca sincerità. Insomma. Insomma, dovete capire, Massimo Moratti è un uomo che ragiona col cuore, quindi non so se è un vantaggio o uno svantaggio, però devo dire che è abbastanza incredibile. Ha fatto anche godere tanta gente in suo modo. Non c'è dubbio, 20 milioni di euro per Guardiola, dicono dalla Spagna. Ma non so se questa qua è una storia vera o no. Comunque, che differenza fa? Se arriva Guardiola o dice sarà una ragione? Le chiedo ancora questo. Allora, ci sono dei costi e ci sono degli investimenti. Sì? Un costo può essere veramente 10 euro, un investimento positivo può essere 20 milioni di euro. Verissimo. E allora? Verissimo. l'istantanea di questa. Sappiamo noi. Non a caso i Moratti sono ricchi, perché forse ragionano altro. Beati modo. Loro, beati loro, maestro, beati loro. L'istantanea di questa stagione quale sarà? Tutti a capochino. Ma l'istantanea cosa? Del calcio italiano? No, dell'Inter. Ah, dell'Inter è niente, un altro anno interato. Una follia interista, non a caso io sono interista per questo. Vi sentite a casa, insomma? Ma no, ma è la sorpresa, sorprendente. Noi non siamo una squadra come quelle del potere, prima dell'automobile e poi del politico, insomma, quelle lì, no? Quelle strade, quelle squadre lì, del potere. Noi non siamo una squadra del potere, siamo una squadra della passione, della sorpresa, della follia. La vita va vissuta così, non da impiegati di lusso. Sì, certo. Su questa affermazione molti non saranno d'accordo, naturalmente. Vabbè, non è che lo dica per andare d'accordo, più a cercare il consenso popolare, Buffon, come Buffon, d'altra parte. Maestro, io la ringrazio. Grazie. No, un conto è il consenso popolare, un conto è essere sinceri, scusate. Essere sinceri mi ha sempre esserlo. Sì, e lui lo è stato. Soprattutto quando si gioca. E lui lo è stato. In fondo lui gioca a calcio. Sì, lui lo è stato. Più sincero di così si muore. Sincero di un egoismo incredibile. Però io le ripeto, ammiro questa impopolare sincerità, l'ammiro. Non perché ha ragione, però perché non so quanti avrebbero avuto il coraggio di dire quella cosa. No, ma mi sembra come un soldato che va ammazzato perché era così, dovevo farlo. Ma che discorso è? No, la verità è la verità, è una sola. E va detta subito, non si lascia passare la bugia, insomma. Dai, ragazzi, ci sono i grandi e i grandissimi. Lui è un grande, purtroppo non è un grandissimo. No. Ci fermiamo ora per il traffico e poi torniamo su Gol o Presunti Tali. A tempo di sport. Dunque, in occasione della partita dell'anno, quella che poi ha deciso lo scudetto e quella che ha innescato un miliardo di polemiche, come detto, ancora non sopite, che continueranno in questa stagione, Galliani continuerà a tenersi la sua foto sul cellulare e ognuno continuerà a tenersi, compreso Massimiliano Allegri, le sue idee. Ebbene, in occasione della partita dell'anno facciamo anche una lunga chiacchierata con Matteo Marani, direttore del Guerin Sportivo. La risentiamo. Buon pomeriggio, ciao, bentrovati. Siamo qua di nuovo a parlare di insomma, delle solite cose, Moviola, mica Moviola. Però, guarda, la cosa che peggiore ieri sera, esagero volutamente, non è stato neanche l'errore di Romagnoli quanto il dopopartita, secondo me. Ma sì, io direi tutto, sinceramente tutto, anche l'intervallo, ci metto dentro ogni cosa, lo spettacolo ovviamente, indecente finale. Forse io sono d'accordo, forse solo con una cosa, con Conte. Cioè, quando ha detto che questa partita qui è stata caricata troppo, sì, innanzitutto dai anche da loro, soprattutto dai protagonisti. I protagonisti che hanno usato in maniera strumentale, anche un po' spregiudicata, ovviamente i mezzi di informazione che erano ben disponibili. Questa partita è cominciata ed è degenerata il giorno della manata di Bradaronica. È cominciata lì. Ha cominciato a deragliare da lì e poi è finita con un far west che è molto italiano. Sì, che purtroppo però bisogna anche sperare di interrompere, di smettere, perché non possiamo offrire all'estero questo spettacolo. Quello per noi ieri era una sorta di grande classico. Mi sembra una speranza vana, posso dire. Sì, però bisognerebbe che in qualche maniera si tentasse di porre rimedio, perché non possiamo assistere a questo spettacolo in cui, ripeto, c'è alla fine un far west, è tutta una risa, ci sono veleni, ne sono volati nell'intervallo accuse di mafia da una parte e dall'altra, via, è pur sempre una partita di calcio e tale dovrebbe rimanere. E dico, è stata troppo inquinata la vigilia, troppo, se ne è parlato troppo, c'è stata troppa attenzione probabilmente da parte dei media. Ieri si scherzava con qualche amico in rapporto all'attenzione per questa partita, sul fatto che per esempio Genoa-Parma praticamente non è stata neanche non sia esistita, si è parlato secondo me eccessivamente, c'è stato un surplus di informazioni, di battibecchi, di polemiche, quello è il risultato finale. Senti, ma alla luce della partita di ieri sera, chi è favorita per lo scudetto? io credo che il Milan abbia qualcosa in più, credo che abbia qualcosa in più, sarà molto determinante la vicenda Champions, nel senso che se il Milan dovesse andare molto avanti, chiaro che porterà via energie e magari nel testa a testa finale potrebbe spuntarla la Juve, però secondo me il Milan rimane la squadra più forte, ha avuto un calo nel finale, ma se teniamo conto delle assenze e del fatto che probabilmente insomma potesse andare sul 2-0 probabilmente sarebbe stata un'altra partita, mi sembra che abbia dato dimostrazione per almeno 65-70 minuti di netta superiorità. Buffon che dice quelle cose? Ma questo stupisce, perché insomma lui è un giocatore che lo conosciamo per essere uno, come diciamo, anche fuori in genere dal coro, cioè uno che ha avuto anche molto coraggio in molte posizioni. Infatti quindi... è uscito dal coro. Perché il coro sarebbe stato quello, no, l'avessi visto, avrei segnalato all'arbitro, non me ne sono accorto perché, che poi può aver ragione, io posso credergli quando dice non me ne sono accorto, non sono così sicuro che si sia accorto che la palla era dentro totalmente, eccetera, perché un tiro ravvicinato, una parata veloce, un gesto, puoi non rendertene conto. Poi è uscito dal coro. Ma secondo me, lì io credo che un portiere del suo livello, col suo senso di orientamento, cioè che gli permette con un sesto senso di leggere e interpretare millimetro, io credo che lui la percezione l'abbia avuta. Soprattutto in quella situazione lì, perché quella è una circostanza un po' limite. Sì. Cioè la cosa è un po' surreale la vicenda, perché il guardalinea è libero, non è impallato, al campo libero. Esatto. La dovrebbe vedere senza dubbi. Esatto. E non la vede. Io continuo a pensare ovviamente alla buona fede, per cui per carità non l'ha vista, però sorprende questa cosa qui. Buffon che parte la vicenda e dice io non l'ho, ero convinto insomma della bontà della cosa. Chi era allo stadio mi giura e mi testimonia del fatto che tutto il mondo ha visto. Esatto, quindi è una situazione un po' particolare. Ti chiedo ancora una cosa che non riguarda la partita di ieri sera, ma le due vicende che trovo, una veramente ridicola e l'altra di vecchio stile, che riguardano i due allenatori dell'Inter e della Lazio che vanno in campo stasera. Ieri eravamo qui tutti ad aspettare la conferenza stampa di non si sa chi. Io ero in onda alle 17, ero in programma questa conferenza stampa, ero qui con Andrea Zoli, dicevo guarda che adesso c'è la conferenza stampa dell'allenatore della Lazio, il problema è che non sappiamo chi è l'allenatore. Conferenza stampa posticipata, Zola, colloquio con Lotito, cioè una vicenda che non mi viene un'altra parola se non surreale. Ieri parlavamo di se ci fosse un marziano che guarda da lassù una cosa come questa, direbbe ma voi siete tutti matti, ma è così, siamo tutti matti. Siamo tutti matti. Guarda che secondo me questa vicenda qui non è molto lontana da quella di cui parlavamo prima in relazione al finale della partita di San Siro. Cioè, viviamo di tensioni, di psicodrammi che non hanno onestamente una base, un fondamento. Certo. Soprattutto se ragioniamo sul fatto che la Lazio è terza in campionato. Vista da fuori, cioè se non sei dentro le dinamiche di quell'ambiente così strano, tu dici ma la ragione qual è? La ragione qual è? No, ma infatti non c'è una ragione, sfugge la ragione, siamo in un piano di totale irrazionalità e quelli che tu vedi anche magari che appunto davanti alle telecamere motivano, argomentano, poi dietro le quinte prendono decisioni o fanno cose che sono infantili addirittura, inspiegabili. La vicenda della Lazio è chiaro che c'è un attrito ormai molto radicato tra Rea e Tare, tra Rea e Lotito, soprattutto in merito a quest'ultimo mercato, però un po' come dicevi tu prima, cioè è surreale la vicenda, sì, considerando che Rea ha preso questa Lazio che praticamente era in zona retrocessione. Non solo l'ha salvata, non solo l'ha fatta crescere, è in zona Champions League, vedi è tu. In zona Champions League in questo momento, ma non basta neanche questo. Tra l'altro aggiungo che secondo me non è detto che oggi sia cioè potrebbe essere anche questa l'ultima partita di Rea, credo quella partita lì non sia finita. Non mi sorprenderebbe se domani o nei prossimi giorni arrivasse qualche annuncio clamoroso. E quella di Ranieri sarà l'ultima partita? Io penso che almeno il ritorno con l'Olympique glielo si debba dare, è veramente su un filo. Poi bisogna vedere chi comanda, che è sì Moratti, ma è soprattutto il clan dei senatori, diciamolo francamente. All'Inter comanda il clan dei senatori. Sì, se dovessimo guardare a quello, forse quella è una delle poche garanzie che Ranieri, perché più di concedere lo spazio che ha dato lui ai senatori non l'ha fatto nessuno. Se lo sono preso. ma sì, se lo sono preso, cioè, Thiago Motta a Parigi, che cosa dovevano fare di più? Voglio dire, quello che era il miglior centrocampista dell'Inter, quello che aveva a un certo punto più tenore fisico, quello che stava meglio di tutti, che è quello onestamente anche da un punto di vista qualitativo in assoluto il migliore, è stato ceduto, comunque ha dovuto prendere le valigie e andare sostanzialmente. Quindi è chiaro che lui, i senatori li ha accontentati, Ranieri. Il problema è che forse non basta neanche questo. Chi decide tanto è uno all'Inter, ovviamente è Moratti, che è molto scorato, che è amareggiato, che probabilmente potrebbe fare anche qualche, come dire, prendere qualche decisione in consulta e magari farla cacciata prima dell'Olimpico. Per me sarebbe un errore, anche perché in questo momento poi che cosa fai? Affidi la squadra a Bernazzani, a Figo? Cioè... No, non ha senso. È un Inter insensata in questo momento. Cioè è un Inter che sul campo viene guidata, come detto, e ne sono profondamente convinto, dai Cambiasso, Zanetti, Stankovic, quelli che hanno fatto la storia e che dicono vabbè, giochiamo noi e poi vediamo cosa succede. Siamo tornati alle telefonate a Moratti, siamo tornati ai giocatori che vanno da Moratti e decidono i destini della squadra, l'allenatore che è gradito oppure non è gradito a seconda della luna con cui si svegliano i senatori. La mia sensazione è questa: in questo momento cambiare Ranieri prima della gara di ritorno con il Marsiglia non avrebbe totalmente senso, ma non avrebbe totalmente senso nemmeno in caso di esclusione, perché la stagione è questa. La società dovrebbe dire si va fino alla fine, poi bisogna lavorare da adesso in poi per questa società, cosa che non so se si stia facendo, con quali idee e con quali uomini. Ma guarda, la debolezza dell'Inter, come dire, è tangibile, la vedi in tante cose, in tantissimi aspetti. Tra l'altro in genere quando i cicli vanno verso la fine, ed era inevitabile che anche quello dell'Inter andasse verso la fine, lì misuri secondo me proprio la forza di una società che deve avere il coraggio di staccarsi dal passato, di ricostruire, di cedere anche magari pezzi importanti. E invece probabilmente l'Inter è rimasto un pochino schiacciato nella gratitudine, che è un grande sentimento, ma in questi casi qui io credo che abbia aspettato troppo. Tra l'altro, se andiamo a vedere un pochino la bilancia uscita e entrata degli ultimi anni, è spietata, perché sono partiti i migliori, gli Eto'o, eccetera eccetera, e l'Inter ha fatto un ricambio che non esiste. Quando vedi Zara e Castagnosi, mi domando onestamente che mercato sia quello. Però sullo sfondo, credo, sull'orizzonte, credo che il problema più grosso a questo punto riguardi Moratti, cioè capire esattamente Moratti che cosa vuol fare. Certo. Intanto è un campanello d'allarme il fatto che lui lasci lo stadio in quella maniera durante la partita, non l'aveva mai fatto. E se vuoi si aggiunge un altro campanello d'allarme, che è il fatto che possono entrare investitori nuovi, cosa che finora non si era mai neanche ipotizzato. Sì. L'Inter negli ultimi anni ha avuto esborsi importanti. Noi quantificavamo come Guerino dal 2006 al 2011 quasi 400 milioni di euro messi dentro da Moratti. Aggiungiamoci che dentro c'è stata la Champions. Sì, quindi sì, pur sì, avendo sì, vinto la Champions, sì, Moratti ha dovuto finanziare per 400 milioni di euro suoi. Si trova di fronte a una prospettiva che deve intanto rifare comunque in grande parte la squadra. Rischia di non avere i proventi Champions, perché l'Inter rischia seriamente di non arrivare terza e per la prima volta dopo 10 anni di non entrare in Champions League. Quindi è uno scenario molto, come dire, fosco, molto molto delicato, sicuro, per cui bisogna capire intanto qual è la volontà precisa di Moratti. Io non lo vedo più entusiasta come nel passato, insomma mi sembra uno molto molto raffreddato. Certo, grazie direttore, grazie Matteo Marani, alla prossima. Ci fermiamo qui, un pizzico di pubblicità e poi torniamo insieme per divertirci, almeno io mi sto divertendo, non so voi magari vi starete arrabbiando. Se siete tifosi milanisti, beh, torneremo insieme ancora un po'. A tempo di sport. Il più cinematografico di tutti i gol. Non abbiamo dichiarazioni in proposito di Aurelio De Laurentiis, anche se sarebbero state opportune in questo caso. Il gol di Muntari sembra ormai il titolo di un libro o di un corto, di un film mi sembra troppo. Ebbene, quel giorno ne parlammo anche con un grande colpitore di testa come Aldo Serena e con due ascoltatori particolarmente simpatici che lo hanno preceduto, a cominciare da Moreno. Sentiamo. Io vorrei dire una cosa, secondo me Conte deve pagare due caffè a Tagliavento sul giorno d'incontro. Uno per l'arbitro, Il secondo caffè, perché stamattina tutti parlano dell'arbitro, ma nessuno parla della formazione che ha messo in campo ieri sera al primo tempo. Ha ragione. Che secondo me è assolutamente sbagliata. Ha ragione, sono d'accordo con lei. Sono d'accordo con lei perché non ha senso in una partita così importante. Poi il campo lo ha dimostrato e Conte ha giustamente corretto la formazione, perché mica è fesso. Però Estigarribia e i due attaccanti che ha messo in campo, quando in una partita così importante tu vai con i giocatori che ti hanno portato lì, non ci sono motivazioni o giustificazioni che tengono, soprattutto per una squadra emotiva come la Juventus. Cioè, sappiamo cosa abbia dato Pepe in questa stagione, non sta benissimo, fa niente, in una partita come questa giocano Matri e Vucinic, giocano titolari, semmai poi si cambiano se non stanno bene, se non rendono nel corso della gara, però in una partita di questo tipo vai con i tuoi titolari, soprattutto per una squadra che gioca come la Juventus. Coinvolgiamo in questo discorso che mi interessa molto l'amico Aldo Serena. Ciao Aldo. Ciao a tutti voi e a te. Prima di Moviole e tutte queste amenità assortite, io voglio parlare con te di campo. Diceva l'ascoltatore, Conte ha sbagliato clamorosamente la formazione iniziale di ieri sera, e io sono abbastanza d'accordo. Beh, io penso che in settimana lui, che vede i suoi ragazzi tutti i giorni, abbia valutato sullo stato di forma, mentre io avrei valutato anche su un concetto di caratteristiche. Quagliarella e Boriello sono due giocatori che sono bravi palle alla porta, che vanno spesso incontro alla palla, che dialogano, ma di solito insomma si dà un sortimento delle due punte diverso, con un attaccante che sappia attaccare la profondità, che sia bravo in velocità, e un altro che vada a cucire più il gioco con i centrocampisti. Certo. Ecco, io mi ero anche sbilanciato pensando a una coppia Matri-Vucinic o Matri-Quagliarella, che mi sembrava, ecco, più assortita, più con caratteristiche complete, ecco. Sì, però Aldo, al di là del discorso tecnico, cioè per una squadra emotiva come la Juventus, cambiare le cose in una partita così importante non può aver tolto in qualche modo sicurezza anche alla squadra, perché al di là dei discorsi proprio tecnici stretti e tattici stretti che stai facendo, e sono tutti assolutamente condivisibili, però nella partita della vita vai con i giocatori che ti hanno portato lì, o no? Questo è un concetto. Io penso che Conte abbia realmente, e quindi mi vedo nei panni degli altri, e per quanto ho potuto conoscere Conte, così seguendolo nelle sue annate da allenatore, mi sembra veramente un allenatore che si rende conto giorno per giorno della forma dei suoi giocatori. La Juventus ha cambiato tanto in questa prima parte, sia come modulo di gioco che anche come interpreti. Credo che ora la Juventus e Conte debba fare una riflessione, che è quella: lui è intransigente, ha costruito in poco tempo una macchina da guerra, perché la Juventus gioca su alti ritmi, sta tirando i suoi giocatori secondo me al limite. Qualche insofferenza si è vista dopo Juventus Catania, per fare l'allenamento dopo la partita fra Lichtsteiner e Vucinic se n'è andato dentro negli spogliatoi, Lichtsteiner non aveva voglia di fare gli allunghi e la stanza, quindi sono segnali questi che è il momento forse per tirare un po' indietro l'acceleratore, per fare magari qualche periodo di scarico psicologico e anche forse di lavoro in campo, per poter poi fare il rush finale. Non so, ecco, se Conte sarà d'accordo con questa mia idea, ma me passa, ecco, una Juventus che ora ha bisogno anche un po' di divertirsi un po', di essere meno pressata anche sotto il profilo mentale. Sì, ma il momento è estremamente importante. Cosa ne pensi invece delle parole di Buffon, che mi hanno fatto arrabbiare un paio di ascoltatrici soprattutto? Buffon è spesso schietto e a volte crea frizioni, perché così dice quello che sente. Sì. Se lui fa così e avrebbe fatto così, così. D'altra parte, anche se è un simbolo del calcio italiano, è un punto di riferimento per tutti, in questo caso forse lui ha messo davanti l'obiettivo, che era quello di portare a casa qualche punto, e avrebbe fatto anche qualcosa di così, non dico non lecito, però insomma di eticamente di furbo, discutibile. Di eticamente discutibile. Invece quanto al Milan, il Milan ha giocato da Juventus ieri sera, Aldo, per 70 minuti, ha aggredito, ha messo alle corde la Juventus, sembrava si fossero scambiati le magliette. Poi alcuni hanno detto giocare senza Ibra è quasi un vantaggio, hanno fatto i conti dei punti, eccetera, eccetera. Secondo me è una fesseria e si è capito ieri negli ultimi 20 minuti quando Ibrahimovic, che comunque è uno che tiene sulla squadra, che preoccupa da solo la difesa, che fa un grande lavoro fisico, ecco, il Milan ha pagato secondo me l'assenza di Ibrahimovic in quegli ultimi 20 minuti in cui era chiaramente alle corde. Ma anche io penso sia una fesseria. Io ho visto l'ultimo periodo abbastanza dal vivo perché ho fatto le telecronache a Udine del Milan, dove c'è stata la svolta. Il Milan aveva giocato sotto ritmo, in linea con quell'ultimo periodo, gli era andata bene con i cambi e con un Esharawi che ha fatto benissimo. Poi però contro l'Arsenal, a Cesena e ieri, il Milan sembra aver ritrovato una condizione atletica notevole. Il Milan non ha in questo momento solo non Ibrahimovic, ma non ha neanche Boateng, che è un altro che le partite è importantissimo. Le vince da solo. Ha ripreso una condizione proprio al momento giusto e il Milan ora può giocarsela con tutti anche in Europa, secondo me. Si gioca e se ha questa condizione atletica e psicofisica, io darei più spazio anche ai Sharawi, perché mi piace tanto, perché è un giovane che adesso ha trovato un feeling con il pubblico che è anche da sfruttare. Hai ragione. Aldo, grazie, buon lavoro. Ciao a tutti. Ciao, un abbraccio Aldo Serena. Torno a parlare con gli ascoltatori oggi numerosissimi, 800 24 00 24, numero verde. Un salto a Bari per parlare prima con Maurizio e poi con Piero. Maurizio, buonasera. Sì, buonasera signor Genta. Voi cortesemente che non bollasse da subito come drastico l'intervento che sto per fare, ma che voi discutesse. Io vorrei dire che in un mondo ideale, dove la giustizia funzioni e dove Aronica venga squalificato per le stesse giornate per cui è stato squalificato Ibrahimovic, Buffon e gli altri giocatori della Juventus che hanno alzato il braccio per segnalare che la palla fosse fuori, venissero squalificati in modo da insegnare ai ragazzini della primavera l'etica sportiva, perché quella di ieri sera era un match sportivo. Sì. Quindi per insegnare ai bambini sin da piccoli la sportività, provvedimenti del genere potrebbero essere utili per far capire che gli stessi avversari dovrebbero riconoscere un gesto sportivo come quello del golf. Prego, ascolto. Sì, no, ma Maurizio, insomma, ha parlato Buffon e ha detto quello, ha detto in modo molto crudo quello che pensava. La mia sensazione è che si stia ribaltando il concetto, cioè quel gol non era compito dei giocatori della Juventus convalidarlo, era compito di chi doveva vederlo, poi non l'ha visto, e fallibilità umana, mettiamola così, era un episodio estremamente evidente, però ripeto, non è compito dei giocatori autoarbitrarsi le partite. Perché adesso non facciamo le verginelle, cioè, il pensiero di Buffon l'avrebbero avuto in molti. Io non so quanti di voi avrebbero detto una partita così importante: oh, aspetta, gol 2-0 per il Milan. Siamo onesti. Poi che non sia il massimo della sportività come comportamento, sono d'accordo che in un mondo ideale le cose dovrebbero andare diversamente, ma questo, signori miei, non è un mondo ideale, e quindi uno che dice quelle cose, si assume quella responsabilità e che fa agli occhi di tutti voi, di tutti noi che diciamo queste cose, anche questo tipo di figura, vabbè, io in qualche modo non riesco a non rispettarlo. Guardate un po'. Piero, Bari, buonasera. Buonasera signor Paolo. Dica. Senti, io ho visto quei due episodi di ieri sera, parliamo di ieri sera, no? Sì. Il primo, c'è uno lo vede a velocità normale, sì, la palla si vede che lui è talmente veloce che forse il segnalinea avrà visto quello lì. Ma se non l'ha visto deve cambiare mestiere, però Piero, dai, su, adesso se non l'ha visto deve cambiare mestiere Romagnoli, perché vabbè, ma non è che